amici, come ogni settimana in attesa di un decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un po' in ritardo a dire il vero, stavolta arriverà lunedì, lo aspettavamo per domenica e come al solito, le ipotesi in discussione, coprifuoco alle 21, chiusura delle regioni e chissà cos'altro, mentre un pezzo della discussione si concentra sulle misure restrittive esclusivamente per la popolazione over 70. Intanto ieri un lieve rallentamento della crescita del numero di ricoveri e ricoveri in terapia intensiva, ma siamo sempre intorno ai 1000 per i primi e ai 100 per i secondi. Ed è di poco fa una notizia dolorosa per passare ad altro, ed è la morte di Gigi Proietti, che da ieri era ricoverato in terapia intensiva a Roma per un infarto, per un problema cardiaco. In una settimana questa che è importante, anzi fondamentale per un altro motivo, tra due giorni si vota per le elezioni americane, improbabile che si conoscano i risultati la notte stessa, visto il massiccio ricorso al voto anticipato e per posta, ma sono le ore decisive che chiudono la campagna elettorale. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare. Mattino di Simone Spezia. When out of Marty Boom, I've seen your frown and it's like looking down the barrel of a gun. Ed eccoci, care ascoltatrici, cari ascoltatori, sono le 6:32 minuti e 30 secondi. Che dobbiamo fare? La data è quella che è, il 2 novembre. Parole di Gigi Proietti, che così parlava del giorno del suo compleanno, che era appunto il 2 novembre, il giorno dei morti, con la consueta ironia. Ed è oggi, in questa giornata, nel giorno del suo 80° compleanno, che se n'è andato. Ve l'abbiamo detto poco fa, si sapeva che stava male, aveva avuto un infarto, un problema cardiaco, era ricoverato in terapia intensiva. Due o tre voci per ricordarlo, va. Molti nuovi figli, avevano tre figli per uno, tutti e 27 sfidano il Cavaliere Nero, ma il Cavaliere Nero ti ammazza tutti e 27. Mosti 27, ma basta, dice il professore, dimmi la morale. La morale è che al Cavaliere Nero non gli devi cagare cazzo! Remember cuddles in the kitchen, yeah. Eh sì, vieni fa. No, c'è, no, e allora qua, e allora qua. Anche voi non prendete fischi per fiaschi. Solo questo è il fischi maschio senza raschio. Stop! È un whisky fischio senza maschio. Stop! È un teschio maschio senza fischio. Stop! Un caschio moschio senza fischio. No! Col fischio. No! Col caschio. Nemmeno. Va bene. E va bene, si fa per dire. Un grande dispiacere, un grande attore italiano. Il teatro, il cinema, lo avete sentito adesso. E la televisione, il maresciallo Rocca, che tanti hanno amato negli anni 90. Così, così dunque. Mentre siamo ancora qua con le cronache di Covid, il professor Lopalco dice di essere a favore di misure nazionali. No, io sono per misure nazionali, per un semplice fatto. Laddove la circolazione è più alta, ovviamente queste zone beneficeranno un po' di meno, ma laddove la circolazione è più bassa, queste zone beneficeranno ancora di più. Per il motivo che dicevo prima, perché qualunque misura più precocemente viene presa, maggiore è la sua efficacia e non solo, probabilmente sarà anche minore la durata di queste misure. 349-238-6666 per i vostri WhatsApp audio, le vostre voci, messaggi SMS. Come si diceva, siamo in attesa di questo nuovo decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, mentre la discussione si concentra su tenere a casa gli over 70. Ditemi un po' che cosa ne pensate, perché su questo fronte mi interessa sentire la vostra opinione, non tanto quella virologica, a meno che virologi non siate o medici non siate. Innanzitutto sugli aspetti etici, del tenere a casa una fascia della popolazione che tra l'altro vede le sue prospettive di vita inevitabilmente per questioni anagrafiche restringersi, e quindi togliergli un pezzo di vita in questo momento. E poi ve la butto là come riflessione. La mia impressione è che sottostante a questa discussione ci sia un tema di conflitto generazionale. Garantiti, ossia pensionati, contro non garantiti, o meglio, non garantiti contro garantiti. Le persone che godono della proprietà immobiliare contro le persone che soffrono della precarietà immobiliare, e tutto si scatena e si snoda in parte intorno a questo. Per dirla con Libero, vogliono chiudere i vecchi nell'armadio, è il titolo di apertura, forse un po' troppo, però la riflessione è sicuramente aperta. Misure nazionali, diceva il professor Lopalco. Misure nazionali, dice l'assessore lombardo Gallera. Sentiamolo. Noi oggi abbiamo fatto un confronto col governo e tutte le regioni hanno detto ci vogliono misure nazionali, anche perché se c'è un problema di mobilità è evidente che riguarda tutte le regioni. Poi oggi abbiamo 11 regioni che hanno questo un RT maggiore di 1,5 e le altre ci stanno arrivando, quindi delle misure ha senso che siano nazionali. Nino Cartabellotta della Fondazione Gimbe, che dice alla... siamo alla vigilia, è il terzo decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri in 3 settimane, dice Cartabellotta, il governo sta inseguendo. Sono un po' deluso, perché un governo che insegue con un DPCM la settimana il virus che ha 14 giorni di vantaggio con misure aggiuntive senza costruire una strategia che tra l'altro deve tenere conto non solo dei problemi sanitari ma anche di quelli economici e di quelli sociali, una strategia che deve essere puntata su quelle che sono le proiezioni a 2-3 settimane della crescita, è evidente che noi da 4 settimane inseguiamo il virus che continua la sua crescita e non riusciamo ad arrestarlo. Così Cartabellotta. Il leader della Lega Salvini dice no a chiusure, altrimenti la cura è peggiore del male. Sentiamolo. Mentre il governo sta pensando, così leggiamo sui giornali, di richiudere altre città, intere regioni, ecco, io spero che non si arrivi veramente a un'altra chiusura totale, perché sarebbe un disastro non solo economico ma sociale, culturale, affettivo. Ci sono alternative, sì, le cure a domicilio, non ci stancheremo mai di ripeterlo, perché spesso la cura rischia di essere peggiore del male che si va a curare. E c'è sottostante a tutta questa vicenda, se volete, un altro conflitto, e anche là ve lo butto come spunto di riflessione, ditemi quello che pensate, quasi una provocazione, che... questo conflitto tra salute e lavoro è un po' quello che sta attraversando le nostre discussioni da qualche tempo. Vien quasi a dire che la pandemia è un'ILVA su scala globale. È il tema che stiamo continuando a discutere da molto tempo senza trovare una soluzione. Cara Mariangela Pira, giornalista di Sky TG24, conduce al venerdì alle 11.30 Sky TG24 Business. Mariangela, buongiorno, bentornata ai nostri microfoni, eccoci, come stai? Buongiorno, buongiorno a te Simone. Eccola qua, autrice del libro Anno Zero DC, dopo Covid, sì. Anche se il Covid non è passato, I nostri soldi, i mercati, il lavoro, i nuovi equilibri internazionali dopo il coronavirus, edito da Chiare Lettere, con... una prefazione autorevole, quella di Massimo Galli. Devo dirti, Mariangela, che qualcuno in casa, l'ho preso venerdì, l'ho portato in casa, e se c'è qualcuno dei miei, mia moglie, i miei figli in ascolto, qualcuno me l'ha fatto sparire, quindi l'avevo iniziato, ero là che me lo sfogliavo e poi è svanito nel nulla. Lo legge questo conflitto tra salute e lavoro che no, si ripropone, si continua a riproporre, anche se oggi in un bellissimo pezzo sul Corriere della Sera di Paolo Giordano e Vespignani insieme si dice guardate, il conflitto non c'è, perché poi quando le terapie intensive si riempono, quando si riempono gli ospedali, quando si ferma tutto, poi questo conflitto non esiste perché si ferma tutto automaticamente. Che dici? Sì, assolutamente concordo. Concordo appieno, Simone. Io penso che, tra l'altro, quando tu dici anno zero DC, non è tanto dopo Covid, ma è quanto dopo quest'anno ci sta un cambiamento in diversi paradigmi. Non sarà più lo stesso anno il prossimo. In questo senso è DC. Quest'anno cambierà molto le cose. Per il resto, io condivido quanto hanno scritto stamane, che è un po' il senso di quello che dicono anche molti scienziati nell'ultima settimana, ovvero se non c'è la salute non ci può essere il resto. Certo, a volte magari ci sono delle decisioni che sembrano contraddittorie in entrambe le direzioni, però per me, per quanto riguarda me perlomeno, sì, prima la salute e poi il resto. Allora, sentiamo, visto che siamo sui punti, sui temi economici, vi farei sentire, cioè questo è il grande tema, se vogliamo, sottostante a questa discussione, cioè cosa chiudere, quando chiudere, sulla base delle esigenze dell'economia. Molto si è discusso negli ultimi giorni sul tema dei licenziamenti, se prorogare lo stop ai licenziamenti fino alla fine di marzo, con le aziende che in parte si opponevano e dicevano attenzione però così irrigidite troppo il mercato del lavoro, perché ci sono aziende che licenziano ma ci sono anche aziende che assumono e che in questo momento non possono fare un ricambio di forza lavoro, per intenderci. Ieri era ospite, se non sbaglio, di Fabio Fazio, il leader della CGIL, Landini, che dice il confronto col governo su questo fronte è stato positivo. Dopo una settimana complicata dove è stato un confronto impegnativo, il governo alla fine ha dichiarato che accettava la proposta che CGIL e CISL e UIL avevano avanzato di risostenere la cassa integrazione cosiddetta Covid per tutte le imprese, da chi ha un dipendente a chi ha una grande impresa, e contemporaneamente di dire che attraverso l'utilizzo di questo strumento si possono bloccare i licenziamenti fino al 21 di marzo. Così Landini, che parla della defiscalizzazione per il Sud e dice non basta se non c'è lavoro. Sì, Però il punto è che un'impresa assume se c'ha da lavorare, e abbiamo già visto che dare gli sgravi di per sé non significa che aumenta l'occupazione. Dal 2015 ad oggi, se andiamo a vedere gli sgravi che sono stati dati per le assunzioni, sono tanti, però non hai generato nuova occupazione perché non hai fatto crescere complessivamente il paese. Perché, cara Mariangela, questa crisi in realtà si innesta, la crisi della Covid si innesta in un paese che di suo è a bassa crescita e che di suo parte con dei problemi, no? Assolutamente, se tu guardi per esempio il caso americano, è vero che negli Stati Uniti milioni di posti di lavoro sono andati perduti, però queste aziende, queste americane, assumono in questo momento a livelli come non hanno mai fatto in precedenza, quindi c'è un ricambio molto veloce. Qui in Italia ci sono ovviamente diversi problemi, alcuni li ha sottolineati Landini, però non dobbiamo dimenticare, Simone, che rispetto ad altri paesi, nonostante noi abbiamo un debito gigante, cioè che ingrassa ogni anno di più, la Germania è ovvio che abbia dato maggiori aiuti, perché ha i conti più puliti, ha i conti in ordine, quindi è ovvio che alla partita IVA non arrivano 1.000 euro, ma ne arrivano 5.000, e così alle aziende in difficoltà. Noi abbiamo un debito, facevamo finta che non ci fosse, abbiamo scoperto che c'è e che comunque gli aiuti non potevano essere infiniti. Nonostante questo però ci sono state le casse integrazioni, non ci sono in tutti i paesi, quindi non tutti hanno, sì, questa garanzia, e non ci sono stati, sono stati bloccati i licenziamenti. Anche questa è una misura che non hanno preso altri stati europei. Quindi guardando le cose, diciamo, con onestà intellettuale, ci sono stati dei pro ma ci sono stati anche dei contro. Sicuramente il traffico. Ed eccoci, eccoci di nuovo. Mio marito ha 70 anni, scrive un'ascoltatrice, ma manda avanti un'azienda. Come puoi pensare di chiuderlo in casa? Un'altra che non vuole essere citata, del 49 dice sì, giusto segregare i vecchi, la scrive proprio così, giusto segregare i vecchi. E buona quella dell'ascoltatore che dice si devono tenere a casa i cretini, non la dice proprio così, la dice più volgare, quelli che non stanno attenti, che girano senza mascherina, e ce ne sono di tutte le età. 349-238-6666 per i vostri WhatsApp audio, le vostre voci, SMS, tutto quello che volete. Come sempre, apriamo una finestra e l'apriremo di qua sempre praticamente nei prossimi giorni, perché ci siamo sulle elezioni americane. Lo facciamo con Francesco Costa, vice direttore del Post. Ciao Francesco, buongiorno. Ciao, buongiorno. Autore della newsletter Da Costa a Costa, iscrivetevi mi raccomando, perché bellissima, è interessantissima, scritta bene, piena di cose. Poi anche autore del libro Questa è l'America, e autore anche di un podcast, appunto, che si intitola Da Costa a Costa. Quindi l'abbiamo dette tutte, Francesco, e ovviamente lo trovate anche sul Post, come è naturale, la sua testata. Francesco, a che punto siamo? A che punto siamo? Innanzitutto siamo al punto che non sapremo il risultato, presumibilmente forse entro il fine settimana prossimo, che dici? È una possibilità? È sicuramente una possibilità, dipende poi se uno dei due candidati avrà avuto un largo vantaggio sull'altro. Potremmo scoprire magari già la notte tra domani e dopodomani che uno dei due ha preso così tanti voti in più che anche a scrutinio non concluso possiamo identificarlo come vincitore. Ma ecco, se dovesse essere necessario aspettare la conclusione dello scrutinio, potrebbero passare diversi giorni, perché i voti che stanno arrivando, di quelli espressi per posta, diciamo, sono tantissimi, mai sono stati così tanti, e infatti non è nemmeno correttissimo, se vuoi, cosa che noi giornalisti a volte facciamo, dire il giorno delle elezioni. In realtà si sta votando da 2-3 settimane, sì. Il giorno in cui si concludono le elezioni è domani. Senti, ma quanti sono arrivati i voti per posta e quelli, il voto anticipato? A quanto siamo? Tantissimo. L'ultima volta che ho guardato erano vicini ai 90 milioni, sono più della metà dell'affluenza prevista per questa elezione, più di quanto sia mai accaduto prima. Non è una cosa completamente nuova, 4 anni fa un quarto dei voti fu espresso per posta, che sono tanti, però stavolta saranno più della metà senza ombra di dubbio. Più della metà senza ombra di dubbio. E questo dovrebbe favorire, Francesco, i democratici, i repubblicani, o non si sa? Allora, in passato il voto per posta e il voto in anticipo non ha mai favorito nessuno, è sempre stata una cosa di entrambi i partiti. Stavolta però, come sai, Trump ha molto criticato il voto per posta, e questo ha fatto sì che venisse utilizzato soprattutto dai democratici e meno dai repubblicani. Quindi i repubblicani pensano di andare a votare soprattutto durante l'Election Day, al costo che magari un imprevisto possa fargli perdere qualche voto, basta un acquazzone con un po' di allagamenti e magari in un seggio qualcuno non va a votare, ma soprattutto quando ci sarà lo scrutinio vedremo prima una gran quantità di voti per Trump, i voti espressi di persona, e poi quelli espressi per posta pro Biden. Potrebbero esserci degli spostamenti poi nel procedere dello scrutinio del risultato, che insomma potrebbero anche creare qualche polemica e qualche controversia. Sì, addirittura si ipotizzano scontri, si ipotizza uno scenario quasi da guerra civile dopo il voto, Francesco. Qualcuno lo fa, ovviamente, magari qualche esagerazione giornalistica, per carità. Beh, però speriamo di no, naturalmente. Però è vero che veniamo da mesi di campagna elettorale molto rabbiosa, di conflitti anche non legati alla politica, ma per esempio al razzismo, fortissimi, e di manifestazioni che hanno già visto degli scontri da Portland a Kenosha, quindi purtroppo quel rischio c'è. Poi speriamo naturalmente che non accada nulla di significativo, ma ci sono già tante immagini di negozianti che stanno barricando le vetrine dei negozi, per esempio, temendo che ci possano essere degli scontri. Appunto, le persone si stanno armando, e questo è stato un segnale anche questo interessante. Le vendite di armi tendono sempre a crescere poco prima di un'elezione, soprattutto se quell'elezione è molto tesa e combattuta, insomma mai come quest'anno evidentemente. C'è un po' un timore per la precarietà della situazione, il timore che la polizia non venga ad aiutarti, il timore di manifestazioni che durino molto e non siano tenute sotto controllo. Da parte di chi vota Trump c'è anche il timore che un'elezione di Biden possa portare a maggiori restrizioni sulla vendita delle armi, e quindi meglio comprarle in anticipo, diciamo. Elemento interessante questa cosa, questo elemento è interessante. Ascolta Francesco, veniamo alla brutalità dei sondaggi, per quanto contino naturalmente, perché sappiamo sappiamo che nel 2016 non è che ci avessero azzeccato, o meglio, ci avevano azzeccato forse a livello nazionale, poi però sappiamo che il sistema elettorale americano è talmente particolare che non è detto che l'esito nazionale, ballavano 3 milioni di voti tra Hillary Clinton e Donald Trump in favore di Hillary Clinton, eppure l'elezione è stata vinta da Donald Trump, perché lo ricordiamo sempre, il voto serve a nominare i cosiddetti grandi elettori, che sono dei delegati che sono in un determinato numero per ogni stato, e quindi ogni stato ha il suo valore, la sua importanza, e si guarda con molta attenzione ai cosiddetti swing states, cioè gli stati in bilico. Quanti ce ne sono, Francesco? Quali sono, che cosa potrebbero portare? Guarda, dici bene, quest'anno sono più o meno una decina, anche se poi quelli su cui si stanno concentrando di più i candidati sono sei. Non è in discussione che Biden alla fine prenda più voti di Trump, questo è dato per scontato in ogni caso. Bisogna vedere se nei singoli stati, come è accaduto nel 2016, Trump riuscirà a costruirsi comunque un vantaggio. Sembra certo che Biden vincerà in tutti gli stati in cui vinse già Hillary Clinton, più probabilmente Michigan e Wisconsin, su cui, in cui ha un vantaggio di 8-9 punti, quindi anche abbastanza da assorbire un eventuale errore nei sondaggi. Gliene manca un altro di fatto per poter diventare presidente, e lì diventa tutto più complesso, perché non c'è un altro stato in cui lui abbia un vantaggio così grande. Si parla oggi, ci sono molte attenzioni soprattutto sulla Pennsylvania, su cui Trump e Biden stanno concentrando, diciamo, il grosso delle loro attenzioni finali, e anche sulla Florida, che è lo stato in bilico per eccellenza ed è quello che potrebbe anche concludere lo spoglio prima degli altri. Insomma, se noi dovessimo vedere la notte tra domani e dopodomani Biden vincere in Florida, è un grosso segnale che Biden è arrivato alla Casa Bianca e ha vinto. Lo stesso varrebbe dovesse vincere Trump, anche se lui non basta, la Florida deve vincere anche in altri stati in bilico per diventare di nuovo presidente. Ottimo, grazie Francesco Costa, che ci ha aiutato anche oggi a capire un po' come stanno andando le cose. Lo dico, noi abbiamo molti ascoltatori, o meglio, un certo numero di ascoltatori trampiani che si lamentano ogni volta che diamo un sondaggio, dicendo che siamo pro Dem, pro Biden, ma non è pro Dem o pro Biden, stiamo semplicemente raccontando quello che dicono i sondaggi. Poi i sondaggi potrebbero non azzeccarci, potrebbero dare la vittoria a Donald Trump, ma questo l'abbiamo detto fin dall'inizio. Ci fermiamo, c'è GR24, ci ritroviamo tra un attimo con la rassegna stampa. Molte cose, molti elementi, tanto su Covid quanto su tutto il resto. A tra poco.